cari amici, la tela sonora finalmente di nuovo con voi, Capriti ai microfoni e Paola Grausa in regia. Ringraziamo Radio Alma per darci questo spazio. Come sapete, la tela sonora si occupa di poesia e i nostri amici poeti sono tanto contenti perché possiamo chiamarli e intervistarli. Questa sera abbiamo in effetti tre persone, Ivano Mugnaini, e sarà il primo, Chiara Vecchio, che si trova a Parigi, e poi, se ce la facciamo, anche Terry Olivi. Comunque, di Terry Olivi, per il suo libro Incanto dell'essere, abbiamo un brano registrato. Saluti a tutti, i miei amici se ne vanno, ci abbandonano, sono le ore 20, come voi sapete, di venerdì, le persone normali escono e vanno a divertirsi, invece io e Paola rimaniamo qua in attesa di poter parlare con i nostri amici. Allora, dicevo, ci sono state lo scorso venerdì, non siamo andati in onda perché la tela sonora, giusto due parole per ricordarlo, si è recata a Deul, un villaggio vicino a Anversa. Ne ha partecipato insieme ai poeti la domenica, quindi scorsa del 10 maggio, a un evento performant poétique decisamente fuori dal comune, nel senso che questo villaggio vuole essere distrutto dalle autorità portuali perché vogliono costruire chiaramente un porto più grande, commerciale, e quindi, come al solito, prevale la logica del potere e dei soldi. E invece le persone, soprattutto che abitano ancora queste case del villaggio, vogliono preservare la bellezza di questo villaggio puramente rurale, dove ci sono ancora proprio contadini, pastori, persone che lavorano il legno, scultori, pittori. Quindi questo villaggio è diventato un po' il centro di tutti gli artisti che in qualche modo si ribellano a questa mentalità che non ha niente di cultura, non ha niente di amore per la bellezza, ma semplicemente appunto segue la logica del denaro. Quindi cosa è successo? All'una abbiamo cominciato, gli artisti hanno cominciato a scrivere poesie, quindi la tela sonora è andata là per registrare questo evento, allora queste poesie sono state appese con dei chiodi ai muri delle case abbandonate e lungo la Pasteurstrasse, che è una specie di strada proprio all'imbocco del villaggio. E poi siamo con musica e performance poetiche, quindi poeti che hanno cantato la poesia. Siamo andati avanti tutta la giornata fino alla sera, quando il villaggio aveva veramente assunto un aspetto completamente diverso, con tutte le poesie appese. E poi, cosa molto molto molto bella, la settimana prima Michelangelo Pistoletto, fondatore della Fondazione Pistoletto a Biella, e quindi del blog e del sito Love Difference, insieme a Emanuela Baldi sono recati a Deul, e Michelangelo ha, così in segno di rispetto e in segno di amore verso questo villaggio, disegnato il simbolo dell'infinito su una porta di una casa completamente fatiscente, distrutta. E quindi per sottolineare l'importanza dell'arte e di tutto ciò che è la bellezza, eccetera. Bene, ritornando a noi, ripeto quali sono i poeti e poi vado di là e li chiamo. Allora, il primo sarà Ivano Mugnaini, con raccolte di poesie per vie traverse, poi sarà la volta di Chiara Vecchio e poi, se ce la facciamo, Terry Olivi con L'incanto dell'essere. Paola, dai, sei tornata dall'Italia, sì. Dici qualcosa. Cosa hai fatto in Italia? Mi sono rilassata, ecco. Mi sono goduta la mia nipotina, la mia famiglia, i miei amici. Vedete qua la tela sonora quando non ci sentite, perché una delle due non c'è. Beh. E va a, come dire, infatti, va a ricaricare le batterie da qualche altra parte. Esatto. Ma hai fatto anche dell'altro, dai, perché so che sei andata in giro, hai visto un sacco di amici. Ma stasera tu ci avevi proposto la scorsa volta della musica, mi ricordo. Sì, ti ho proposto un gruppo di amici che si chiamano Palcoscenico. Ecco, allora questa sera li mandiamo, non so, la disposizione dei testi. Li facciamo ascoltare adesso. Dai, ok, perfetto. Allora, cari amici, rimanete con noi, ricordo la tela sonora 101.9 FM Radio Alma. Ringraziamo Roberto Antonicelli, Sam, José, tutti i nostri amici. Salutiamo gli amici di Brussellando che vanno in onda, ricordiamo, al martedì dalle 9 alle 10 di sera PM, e Giulietta Laghi, che in questo momento si trova, pensate un po', al festival organizzato da David Giannoni di Melstro e insieme a Giodorowsky, Antonio Bertoli e Marco Parente. Ciao Giulietta, spero che tu ci ascolti comunque anche se sei al festival. La prossima volta sarà la sua volta con Hic & Nunc, quindi ci presenterà chiaramente l'evento, avrà registrato dei pezzi. Bene, ci sentiamo dopo, restate con noi, non abbandonateci. grande suona mia, primavera che frutto e l'alleria. Si te mi sa paura roscura, non ho da retta, non ho panza mai più. E mori ma capienza stasera, senta voce rogore che spera. Para d'argenta, sai che in cielo c'è già un gatto vento. Sì, pensiero che mi lascia una spazza, sui vestiti venata a sposa. Sì, pensiero che mi lascia una spazza, sui vestiti venata a sposa. L'amora, se tu me lassi mo ma conta allora. Ai da fenesti mo vega guaiona, c'è spatto coro va truanna l'amora. Si guarda in cielo sta stella d'argenta, ma parli te e me fa contenta. Sui vestiti banata sposa, sei pensiero che mi lascia una spaisata. Sui vestiti banata sposa, sei pensiero che mi lascia una spaisata. Sui vestiti banata sposa. Cari amici della Tela Sonora, benvenuti di nuovo con noi. Avete ascoltato Palcoscenico, un testo che ormai è entrato nei nostri cuori. Grazie Paola per averci fatto conoscere questa band meravigliosa. Prego. Non so se ve ne siete resi conto, ma cantano in napoletano. Sì. Non è turco, non è arabo, non è inglese, francese, è napoletano. Allora, abbiamo con noi Ivano Mugnaini, ci sei? Buonasera, finalmente siamo riusciti a contattarti. Anche per me. Ciao a tutti. Ciao. Allora, senti, qua piove, infatti siamo diciamo in questo intento. Ma caro Ivano, veramente è stata una specie di, non ci credevamo, perché fino all'ultimo momento non sapevamo se la nostra Paola fosse tornata dall'Italia, perché devi sapere che se non c'è Paola la radio non va, non funziona. Importante. Allora, senti, torniamo a te. Io ho detto che parliamo di poesia con te, ci sono una raccolta di poesie per vie traverse, poi la sillogi di poesie La chiamasti amore e poi abbiamo ancora il testo che ho letto che mi piace tantissimo, la raccolta di poesie che tu mi hai mandato, Strade, che è veramente bella. Infatti io ho iniziato con i primi tre versi lo spot su Radio Alma Blogspot per riascoltare la puntata. Caro Ivano, come sei arrivato alla Tela Sonora e parlaci di te? Sì, dunque, io ho avuto una segnalazione della vostra attività tramite un'amica, credo comune, anzi sicuramente comune, Anna Farabi. Ah, certo. Che ho conosciuto ad un premio, è un artista veramente, non è per amicizia, a tutto tondo, capace anche di divulgare la poesia, non soltanto di scriverla. Infatti. E quindi mi ha parlato di voi e mi ha incoraggiato a contattarvi, e l'ho fatto volentieri perché siamo molto in sintonia per molti aspetti, insomma, non soltanto quello letterario, insomma. E mi piace la freschezza con cui affrontate temi anche significativi, insomma, ho provato e mi ha fatto piacere questo contatto. Bene, bene, noi siamo felici perché tu sai che Anna Maria è la musa, la ispiratrice della radio, prima di Brussellando e poi con la Tela Sonora, e soprattutto di questo uso che facciamo della parola e di questa tela, che è una tela che accoglie appunto le voci dei poeti. Allora, prova a leggermente allontanare il tuo microfono, così la cornetta, pronto? Perché sento un po' di eco, ecco, bravo, così è meglio. Da cosa vuoi partire? Da Vie Traverse, La Chiamasti Amore o La Raccolta Strade? Io dunque, potrei partire anche da alcuni testi che adesso non so in quale raccolta inserire, però sì. Se sei d'accordo leggerei due brevissimi testi di carattere generale e poi uno leggermente più civile, nel senso che di basato anche sull'attualità, su questo nostro tempo. Benissimo. Comincerei con quelli più brevi. Insomma. Dai, va bene. Non sono un grande lettore, ma cercherò di fare il mio meglio. Certo, figurati, ci mancherebbe. Dunque, il titolo è Vivere forse. Vivere forse per un granello di bellezza, anche se non sai come né perché, e non si vede cornice né quadro, né si legge la chiave del gesto, la mano che avvolge con bestiale eleganza la rete calata nel pelago, senza un riso o un ghigno di lamento, meccanica metodica del tarlo che logora sereno il suo legno, morde e martella compito, spietato, secco il fiato nel fondo dei polmoni, apnea, abisso, esplode il rosso di buio, e il flauto dolce che ti scava dentro, inatteso, ugualmente inafferrabile. Ecco, questo è il primo testo. E, dunque, secondo me è valido quello che diceva uno scrittore russo, uh-huh. La poesia non risponde ma domanda. Non so se sei d'accordo, ma insomma... Sì, potrebbe essere. Vai avanti, vediamo se ti seguo. E non offre risposte definitive, ma suggerisce degli spunti di riflessione per poi approfondire, insomma, confrontarsi con la propria realtà personale. Ok. Preferisci che dica qualcosa di me oppure leggo un altro testo? No, parlaci di te, perché io sono rimasta impressionata dalla raccolta di poesie e da strade, perché in effetti hai una metrica molto particolare, come se fosse un racconto, ma è una poesia. Sì. Però c'è una metrica decisamente fuori dal comune che è molto mi incuriosisce molto e si legge anche molto, molto bene, molto facilmente e ti riporta costantemente al testo, al contenuto, alla storia. Quindi è un modo particolare di approcciare. Magari, ecco, spiegaci. Direi che hai colto bene, sinceramente, perché io sono anche un narratore, quindi affianco le due attività. Uh-huh. E secondo me la poesia non deve essere oscura, deve farsi capire, insomma, e non c'è bisogno di ermetismi eccessivi, insomma. Uh-huh. Sono delle regole, c'è un ritmo da rispettare, però secondo me chi legge deve avere ha diritto di un dialogo con il testo, insomma, il testo deve dire qualcosa, non deve essere soltanto un esercizio di stile oppure un'oscurità impenetrabile, mm-hmm. Forse questo anche per il mio legame con la narrativa, che in cui chiaramente è necessario, insomma, tenere la logica del discorso, dialogare con il lettore, insomma, coinvolgerlo. Quindi qual è il senso della poesia per te? Perché tu parli di dialogo, devi dire qualcosa, non è un puro esercizio, quindi è un qualcosa che tu offri, no? Si dice che chi scrive poesie offra i propri versi in pasto ai lettori, esatto. Quindi tu cosa vuoi sollecitare nel lettore, nel fruitore della tua poesia e dei tuoi versi? Ma sai, chiaramente dipende anche dal lettore, è un'interazione importante, però... Uh-huh. Io chiaramente senza voler imporre una ragione che poi è sempre molto relativa, però io cerco di suggerire alcuni stati d'animo e vedere se c'è sintonia con chi riceve, con il lettore, senza mai imporre una verità assoluta, perché secondo me la verità è sempre molto relativa. Certo. Abbiamo avuto qua qualche settimana fa Stefano Elio Danna, in effetti abbiamo avuto proprio una grande discussione sulla realtà. Secondo lui ci sono diversi livelli, sta poi a noi decidere su quale livello ci vogliamo mettere e in base ai nostri pensieri siamo noi che produciamo poi il risultato nella realtà. Quindi pensieri. Ecco, infatti io mi ritrovo, cioè è incredibile, ma le tue poesie potevano essere benissimo pezzi, quindi versi che fanno parte di questo libro, perché dopo averlo letto e leggendo adesso la tua raccolta ci trovo molte affinità. Senti, leggici ancora un testo e poi andiamo avanti su questo discorso e poi invece passi a un testo che hai nominato più civile, così facciamo un attimo il legame, testiamo un attimino un po' il legame fra i due testi. Allora io leggerei stasera questo testo, un breve anche questo, e una storia diciamo personale, anche se poi il destinatario ideale è chiunque, insomma. Ci ritroveremo, mi hai detto, in qualche angolo del mondo, ma il mondo non ha angoli, ogni punto equivale a tutti e a nessuno. La curva del tempo, ferro, nebbia, graffio, veleno, traccia di sogno, linea di una mano. Ci ritroveremo, certo, e ci accorgeremo che è gravido di altre carni, di altri semi, il ventre del destino. Ma ancora, tenace, avido, feroce, partirà lo sguardo verso un lembo di pelle, l'occhio, il collo, il braccio, il seno, e di nuovo sarà immagine del mondo, spazio di luce agibile, abitabile, l'attimo in cui, ridendo, ci diremo che non è possibile. Ecco, questo è un testo tra l'amaro e tra il dolce. Infatti dicevo, tra la speranza. Sì, infatti. Senti. Raramente tendo verso punti, c'è sempre una mistura tra speranza e, insomma, e realismo, tra virgolette. Non c'è mai una visione netta, proprio che taglia in due la realtà. È un po' come una palla, una sfera, cioè dipende da come la giri, no? Cioè sì. Un lato, poi la giri, vedi l'altro, dipende un po', ma comunque è importante che la sfera ti stia in mano e poi sei te che decidi da quale parte girarla. Sì, è essenziale, credo che sia il gioco della vita quello lì. Bene, e poi senti, allora leggiamo la terza poesia, sì. E poi continuiamo un po' il discorsetto sul tuo verso. Questo è di tono totalmente diverso e due paroline su cosa l'ha ispirata. Un libro pubblicizzato su una rivista, L'Immaginazione, scritto da Francesco Muzzioli, il titolo è Quelli a cui non piace, il riferimento è al mondo, cioè questo nostro mondo. Okay. E tratto l'ispirazione parte da Bertolt Brecht, che nel 1932 scriveva una sceneggiatura in cui un personaggio dichiarava, faceva la domanda, chi e che mai cambierà il mondo? E lui si aspettava una risposta assolutamente negativa, cioè si aspettava nessuno, e invece io ho provato a ribaltare il discorso e vedere un po' un'ottica un po' più ottimistica. Va bene. Chi potrà mai cambiare il mondo? Chiese Pilatesco, fintamente coinvolto, certo dell'abisso del silenzio, un finto intellettuale, manager, stagista, unto di gel, servo perfetto del potere. Quelli a cui non piace, rispose, secca, con colossale sorpresa della folla, una giovane brechtiana operaia, una come tante a ben vedere, figlia di un padre che si spaccava la schiena senza mai stancarsi di sorridere, trasportando pile di mattoni e ideali, materiali buoni per costruire case e sogni, posti in cui vivere, liberi, uguali. Quelli a cui non piace, risuonarono, stile di pioggia fertile, nuova, le parole della donna in fiore, e più fecero finta di non sentire. Altri si dissero che in fondo, a loro il mondo così com'è non dispiace, non è disgustoso, si può lavare la macchina la domenica, andare al centro commerciale, facendo fare al figlio un giro gratuito nel carrello di ferro della spesa. Gli occhi dell'operaio si sarebbero dovuti riempire di liquido gelato, la pioggia della resa, ma era figlia di suo padre, sepolto in una bara coperta da un drappo che faceva infuriare i tori. Sorrise ancora, certa che, presto o tardi, quelli a cui non piace sarebbero sbucati da persiane sbarrate di paure, avrebbero ritrovato la voce, il cuore, e sarebbero corsi fuori. Ecco, questo è un testo di tono molto diverso dai precedenti. Che cosa è stato ispirato questo? E questo libro, questo spunto, questa domanda che poi credo che almeno una volta ce la siamo fatta tutti, no? Chi mai potrà cambiare il mondo? E tendiamo a risponderci con un sorriso autoironico, come dire, nessuno. Ma probabilmente non cambia proprio perché noi continuiamo a non risponderci, no? Se più, insomma, si rispondessero insieme, magari, chi lo sa. Intanto cominciamo a rispondere noi, te, io, Paola. Sì, sono d'accordo. Allora, tu che fai per cambiare il mondo? Io personalmente? Sì, scrivi. Scrivi. Che posso, insomma. Cerco di essere coerente con le idee, insomma, per quanto possibile. Poi, chiaramente i miracoli purtroppo sono fuori. Però perlomeno fare il possibile credendo nelle nostre idee. Insomma, io credo che questa sera la tela sonora, con questo lavoro di tessitura che stiamo facendo, anche a volte con grande fatica ma anche con tanta gioia, si stia facendo un lavoro diverso. In fin dei conti noi diamo la voce alla poesia, poeti che vivono in Italia ma anche in altre regioni dell'Europa. Qui siamo nel centro dell'Europa, nel centro del nostro grande continente, paese, ci sentiamo tutti europei. Oggi guardavo, c'è sciopero qua, la metro era praticamente inagibile, tanto era piena di gente. E beh, era incredibile vedere quanti volti diversi, con caratteristiche, vestiti, colori, trucchi, atteggiamenti, incredibile. Una ricchezza, una varietà veramente splendida. Beh, io ho trovato molto bello tutto questo. Sì, molto bello, perché mi sono detta, viva la differenza, viva come dice il sito di Love Difference, l'amore della differenza, perché questa differenza che ci fa più ricchi e ci dà l'opportunità di vedere il mondo, come dici te, da più punti di vista. Perché io trovo che in fin dei conti, se il mondo a volte non ci piace, è anche perché noi ci ostiniamo a vederlo in un certo modo. Quindi ripeto, sono i nostri pensieri, sono la nostra creatività, il nostro sogno che ci porta a creare una realtà diversa, un mondo più bello. Quindi abbiamo una responsabilità enorme. Esatto. E qua alla tela sonora l'abbiamo capito, grazie Anna. Fa molto piacere. Eh sì, e infatti vedi Vano, ci sei arrivato anche tu qua. Sono contento, sono nel centro dell'Europa, tramite l'etere per fortuna. Certo. Senti, allora ti do ancora un po' di tempo per leggerci un'altra poesia, se è breve ancora meglio, così poi ti salutiamo, mandiamo ancora un po' di poesia e chiamiamo il prossimo poeta. Benissimo, l'ultima, non l'ho preparata ma vado un po'. Sì, a casa. vai tranquillo. La trovo una breve, spero, e dunque questa l'abbiamo letta. Questa è relativamente lunga. A me piaceva Strade. Sì, Strade. Forse ho trovato una abbastanza coerente con quanto dicevamo. Va bene, dai, sì, così rimaniamo in tono. Sì. Arriva un momento in cui tutto ciò che rimane è attesa, sospensione, grado zero della vita. Diventa colpa allora perfino muovere le dita della speranza, dirigere il cuore verso l'idea di un cielo arioso, un morso di pane, una briciola, un sorso residuo di vino. Ma più colpevole e più tenace è l'udito, fisso sul legno della porta, inchiodato ad un battito, un tocco ansioso, incerto, furtivo. Forse il tonfo, l'incedere del destino, o forse il calore, sincero, di una mano. Ecco, credo che questo si possa ricollegare a quanto detto precedentemente. Ivano, quello che sentiamo noi, la speranza, è fondamentale, come il sogno, come giustamente dicevi. Bene, se facessi ancora un'ultima domandina, il tuo sogno, qual è il tuo sogno? Il mio sogno è, non voglio essere retorico, ma insomma è Dai. Un mondo in cui ci sia più spazio per la poesia, ma non nel senso solo della scrittura, ma quello proprio degli atteggiamenti. Dei sentimenti. Sì, esatto. Del sentimento e dell'emozione poetica. La sostanza è quella, non soltanto sui fogli, che quelli possono anche, cioè sono importanti, ma alcuni possono anche non recepirli, però proprio nella quotidianità, l'atteggiamento nei gesti più normali, insomma, che poi insomma se tutti facessero qualcosa, insomma, vabbè, il risultato sarebbe diverso. No, a me piace molto Strade, quella tua poesia, guarda, è eccezionale. Sì, come se si potesse scarnificare la parola, sì, irriderla, violentarla e lasciarla lì, occhi gelidi, incolume, feroce, ancora serena. Inebriarsene, sfregiarla di carezze di vetro, senza pagare lo scotto, la ruga che scava la pelle, lasciandola bella, di bellezza ineffabile. E poi continua. Molto grazie. Bella, molto bella. Ti ringrazio anche per la lettura. Molto bella, molto, veramente. Perché parli di tante cose. Io, una poesia, a me piace molto il colpo d'occhio, leggere le parole, no? come le inserisce. Io ho visto, sì, e infatti, e io vedo per esempio bellezza ineffabile, poi asfalto, squama, lacera, abitacolo surriscaldato, denti, ride, bambino, grumi e l'aria, cervello si struttura, cioè è veramente è un esercizio, guarda, strade è molto molto bella, non so se te ne rendi conto. Tra l'altro c'è anche questo accostamento tra termini tra virgolette urbani e quelli, sì, concreti della vita di tutti i giorni. È un meccanismo che mi piace molto, mi viene anche abbastanza spontaneo. Sì, infatti, quando parli di bitume, sonda, sì, l'amalgama con i piedi, una danza imparata da bambino, gambe salde tra i grumi e l'aria. Molto, molto bella, veramente sei un grande. Aveva ragione, Anna. Noi ringraziamo Anna, ringraziamo te, Ivano, per aver partecipato. Ringrazio voi molto e bocca al lupo anche agli autori che mi seguiranno. Perfetto, grazie. Senti, la puntata verrà caricata sul blogspot di Radio Alma, quindi la potrai riascoltare e potrai anche commentare, quindi sarà un ricordo per te e per noi. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Grazie. Ciao. A presto, ciao, grazie ancora. Ciao. Bene, cari amici, come avete visto, è stato veramente un momento particolare, molto forte, perché Ivano ha un modo di scrivere molto diretto, direi poco romantico, ma che tocca tantissimo il cuore. Io direi, se Paola è pronta, io passerei a lanciare il secondo il disco che era previsto per oggi. Pronta. Prontissima. Sì, ascoltiamo Cristiano Romano, sì, con L'Uragano. Perfetto, e il suo libro il suo CD è Fortunato, vedrete, è una sagoma, è un ragazzo eccezionale. Ringraziamo Cristian per aver dato fiducia a Radio Alma e la Tela Sonora, mandiamo il suo pezzo e ci sentiamo fra 5 minuti, non scappate, state lì inchiodati. Ciao, dopo. Sono in rotta di collisione, niente ormai mi può fermare, ho un bisogno matto d'amore che mi morde e mi fa male. Le capelli come il mare, occhi come spighe di grano, ecco mi confonde di nuovo quando passa l'uragano. Portami dentro di te, prendimi, fammi girare, scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Portami dentro di te, prendimi, fammi girare, scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Sono in rotta di collisione, zona rossa del bersaglio, tiepido raggio di sole, disarmato dal tuo sguardo. Lei il mio sogno ricorrente, vento di terre lontane, urlo che taglia la notte, lei una lama, un uragano. Portami dentro di te, prendimi, fammi girare, scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Portami dentro di te, prendimi, fammi girare, scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Sono in rotta di collisione, ogni tentativo è vano, perdo il lume della ragione quando passa l'uragano. È una notte di settembre, dio la luna piena, mando via le stelle per restare solo con lei. Lei che a volte mi confonde, a volte mi sorprende, poi dietro le tende vuole far l'amore con me, gira con me. Portami dentro di te, prendimi, fammi girare, scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Eccomi dentro di te, prendimi, fammi girare, scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Portami dentro di te, prendimi, fammi girare, scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Portami dentro di te, prendimi, fammi volare, scivola dietro le onde, fammi amare, stare male. Buonasera cari amici della Tela Sonora, benvenuti nuovamente on the air con la Tela Sonora Radio Alma. Abbiamo appena terminato di ascoltare il pezzo Uragano di Cristian Romano. Ringraziamo Cristian, veramente io sono entusiasta, non so perché, mi piace da matti il suo CD. Paola, ti piace? Sì. Anche se c'è sì, palcoscenico nel tuo cuore, però dai. Sì, sì. Fortunato il CD di Cristian Romano, ma abbiamo di nuovo una poetessa al telefono, vero Chiara? Salve, buonasera. Ciao cara, da dove ci chiami? Io vivo in Francia, chiamo da Bordeaux. Ah, bene, benissimo. E come sei finita a Bordeaux? Ma per motivi di lavoro, io sono psicologa e in Italia ho fatto un po' fatica e quindi ho mandato curriculum dappertutto e questa città mi ha accolto benissimo e quindi accanto alla mia attività di psicologa insegno anche italiano all'università di Bordeaux. Ok, e scrivi poesie? Sì, ci provo. Allora, ci vuoi parlare di te, della tua poesia? Hai circa 10-15 minuti, quindi io direi, se tu vuoi, ci farebbe piacere, perché il proposito della Tela Sonora è dare la voce ai poeti, quindi che tu leggessi una poesia e poi ci commentassimo insieme un attimino il tuo modo di scrivere, la metrica, un po' la tua vita, via, poetica. Va bene. Ok. Allora, ne scelgo sì, una. Quello che tu preferisci. Allora, la dedichi alla Tela Sonora. Va bene. Vai. Allora, scelgo Svampita Mutilata. Va bene. Allora, tu non capirai le mie parole acute, non ti pungeranno il cervello, non ti perforeranno lo stomaco, perché non parli la mia lingua e poco ti interessa comprenderla, solamente la vuoi succhiare. Non coglierai il mio intuito sagace, il pensiero vispo che si arrovella e si dibatte contorcendosi, perché semplicemente sei svogliato e il considerare ti indispone. Soltanto risatine vuoi ascoltare. E non ci incontreremo mai nel luogo in cui tu sarai capace di presentire la nostra comune felicità. Non la vorrai mai sapere, non mi vorrai mai sapere. Mai noterai la bellezza imbronciata, lo charme accigliato e il fascino dei miei crucci, perché solo la frivolezza colpirà la tua attenzione. Ecco che avrai per te, a tua disposizione, una svampita mutilata, mozzato il talento, amputato l'estro, tarpato lo spirito vivo e la bella ironia, infliggerai le piaghe, imponendo la condanna. Svolgerai impeccabilmente il tuo dovere di carnefice e, considerato il fatto che assolverò alla lettera il mio ruolo di vittima, eseguiremo a regola d'arte l'esibizione. Dramma, tragedia, recital, varietà. Scoppiettante l'applauso reclamerà una replica, ma il bis è inattuabile. È inattuabile perché sono la stanca ballerina di questo saloon, sono danzatrice leggera su questo cemento pesante. Ecco. Allora, ci picchia. Cosa ne vuoi dire? Ma mi hai lasciato senza parole. Come? Mi hai lasciato senza parole. Ah, addirittura. Beh, carnefice vittima, che è successo? Sì, sono parole un po' crude, ma che in successo? Effetti... Che è successo? Che è successo? Sento un po' male. Eh sì, perché siamo qua. Adesso mi senti un po' meglio? Ma diciamo sì, sono parole un po' crude, ma è un po' il mio modo in realtà di scrivere. Questo è un libro appunto sulla sofferenza un po' al femminile. E quello che volevo fare era proprio raccontare quelli che sono un po' i turbamenti del mondo femminile, soprattutto quelli appunto più dolorosi e più nascosti, quindi quelli più difficili da comunicare, anche da condividere. Senti, la tua attività professionale in qualche modo influenza la tua poesia, cioè tu tramite la poesia magari riesci anche a dar voce un po' a quelle emozioni e quei sentimenti che inevitabilmente avrai probabilmente durante la tua giornata ascoltando un po' le persone, ecco. Quindi la poesia per te cos'è? Una forma anche di catarsi, di pulizia, di modo per fare un nettoyage, no? Sì, senz'altro io diciamo che una parte, da una parte queste poesie sono autobiografiche, dall'altra sono invece, diciamo, la raccolta delle confidenze, non soltanto appunto che ho raccolto nel mio lavoro come psicologa, ma anche appunto avendo avuto una vita un po' da errabonda, un po' da girovaga, ho avuto modo di conoscere molte donne, quindi io sono molto curiosa e mi sono un po' fatta raccontare le loro esperienze, quindi questo libro è un po' il risultato di tutto questo. Senti, come vedi? Ti interrompo subito perché è importante, hai detto mi sono fatta raccontare, come vedi la figura femminile al giorno d'oggi? Molto, diciamo che questo libro è stato dedicato agli amici, alle amiche, ma anche ho aggiunto a tutte le donne che fanno fatica, in quanto a mio parere la donna di oggi vive una condizione difficile, vive in un conflitto molto difficile, soprattutto per la sua identità. Diciamo che credo che una cosa che sia condivisa da molte donne è proprio questa difficoltà, questo conflitto tra quello che sentono di dover essere, quindi il ruolo che sentono di dover assumere di fronte alla società e di fronte all'ambiente che le circonda, quindi le attese, le esigenze del mondo che è fuori, e quella che invece è la propria identità, l'identità sentita. Quello che, per usare un termine un po' psicologico, è il vero sé. Secondo me la donna di oggi vive pesantemente questo conflitto, questa discrepanza. Certo, ha un po' dimenticato che fin dei conti, insomma, la donna è la dea madre, la dea terra. C'è un po' questa mentalità che la donna debba per forza esprimere la propria femminilità nella maternità, ma maternità vista in modo egoistico, cioè quindi familiare, un nucleo familiare molto classico, mentre io credo che la donna vincente al giorno d'oggi sia quella che riesca in qualche modo a vivere la femminità in modo universale, cioè la donna è madre comunque, che abbia o non abbia figli, è madre perché crea, creatrice, perché madre terra, perché la donna secondo me è la centralità, la terra, l'humus. Io quando vedo una donna, la guardo negli occhi e penso a quello che è, come mi aveva insegnato Anna Maria Farappi, che non so se tu conosci, di osservare negli occhi se esiste quella luce che poi corrisponde in qualche modo alla luce della candela, no? E vedere la donna come una candela che, qualsiasi cosa succeda, la sua fiammella è sempre accesa, la candela è sempre ritta e consuma piano piano e dà calore e luce a se stessa prima di tutto e poi a chi ha intorno a sé. Quindi credo che il tuo lavoro sia effettivamente un lavoro molto di tessitura, di cucitura, anche se vogliamo, di ferite, ma in qualche modo dai speranza e guarisci queste ferite. Certamente. Perché infatti si va avanti, la vita è questo, guarire le proprie ferite per essere migliori e dare amore, perché poi quando si dà amore le cose vanno subito meglio, si appianano tante così dispiaceri, tante incomprensioni, no? Perché l'amore crea e dà calore. Quindi insomma sei giovane, perché io sento dalla voce che sei molto giovane. Ho 33 anni. Ci picchia essere già insegnante, psicologa, scrivi poesie. Sì. Brava! Ho fatto molte cose. Brava. Comunque, rispetto a quello che stavi dicendo, volevo infatti dire che sì, le parole usate sono crude molto spesso nelle poesie, però l'ultima poesia, quella che chiude un po' il libro, è dedicata proprio alla solidarietà femminile, quindi all'amicizia femminile, che penso possa essere veramente uno dei mezzi, qualcosa che veramente viene a sanare le ferite che noi donne possiamo trovarci ad avere nel corso della vita. Penso che l'amicizia femminile sia molto importante, una di quelle cose che davvero possono essere terapeutiche, guaritrici. E poi insomma, donne, ricordatevi, voi siete dee, qualsiasi cosa succede nella vostra vita, voi siete dea madre, sì, dea terra, siete state create, concepite e pensate per avere forza e per dare tanta forza. Veramente la donna è molto importante. Io direi che il ruolo della donna forse dobbiamo un attimino rivederlo anche noi donne stesse che siamo qua, che lavoriamo, che dedichiamo il nostro tempo alla professione, alla famiglia, alla vita in generale. Non abbiate paura, io credo, di manifestare i vostri sentimenti, le vostre emozioni. e soprattutto puntate sempre su questo senso di integrità che la donna deve avere. Dove la donna è integra, è pulita, è onesta, è sincera, è difficile scalfirla. Quindi anche se è un esercizio duro e difficile, io credo che l'integrità femminile sia la base di tutto e si vede dove ci sono donne integre. Quindi è un lavoro che dobbiamo fare su ognuna di noi, quindi una pulizia anche che dobbiamo fare, toglierci dalla testa un po' tutto quello che ci raccontano, che leggiamo nei giornali, che ci vogliono far credere che sia veramente il ruolo della donna, invece a modo mio non lo è affatto. Chiara, ci vuoi leggere l'ultima poesia così magari mi hai detto appunto che c'è speranza in questa poesia della chiusura del libro, e come si intitola il libro, perché non ce l'hai ancora detto? Il libro si intitola Volevo essere per te come il mattino ed è edito da Edizione Creativa. Ah, bello, Edizione Creativa. E dove si trova? In Italia? Sì, a Torre del Greco. Tu sei originaria di dove? Io sono di Milano, però anche in Italia ho girato molto, mi sono laureata a Padova dove ho vissuto 9 anni, ho vissuto anche a Roma un paio di anni, ecco. Ho girato anche in Italia. Sì, infatti, sì, ma si sente dalla voce. Senti, leggici l'ultima poesia così ci salutiamo e poi ti invitiamo a riascoltare la puntata sul blog di Radio Alma. Va bene, allora l'ultima poesia si intitola Amiche e la dedico appunto a tutte le donne. Raggi di luce attraversano le tapparelle abbassate, guizzi di sole perforano oscurità ostinate, spregiudicate voci di donne mi strattonano via dal letto, mi spronano alla corsa, mi trattengono per i capelli, nuovamente ancorata alla vita. Bene, grazie. Grazie a voi. Chiara, senti, ti ho fatto aspettare, ma ne valsa la pena, perdonami se non ti ho... Ma, cioè, veramente, sei comunque fortunata perché hai avuto almeno modo di partecipare. Ci sono persone che aspettano da una vita. Mi dispiace, vorrei avere molto più tempo, molte più ore disponibili in radio per accogliere tutti. Grazie, Chiara, grazie di aver ricordato la figura della bellezza della donna. Un augurio per te, per la tua carriera professionale, per la tua poesia. E ci sentiamo di nuovo presto. Grazie mille. Grazie mille, arrivederci. Bene, cari amici, che dirvi? Questa sera veramente emozioni una dopo l'altra. Adesso io vi propongo un altro pezzo e poi passeremo un brano registrato da Terry Olivi e poi vi racconterò qualcosa sul suo bellissimo libro L'incanto dell'essere. Paola, secondo te che cosa mandiamo? Zero volume o cosa vuoi mandare? Potremmo mandare il laboratorio di ripercussioni sociali. Ottimo. Okay. Allora ringraziamo Lorenzo che ha mandato una quantità di CD indescrivibile. Grazie Lorenzo. E mandiamo questo pezzo che è un po' fuori dal comune, no? Immagino, Paola. Okay. Sì. Grazie. Down. Here's the place where I live. Happy day, let me believe there's something better to us. Please let me live my dreams. I have work to do. 'Cause we live in a blue town. That's work to do. Because I live in a blue town, I've got work to do. Because we live in a blue town, we've got work to do. Because I live in a blue town, I've got work to do. Thank you. town. I walk about the streets, all which over me is a painful load. Please stand around with me with a sentimental mood. Don't run away to keep your hopes and dreams. Cause we live in a blue, blue town. We've got what to do. Cause I live in a blue, blue town. I've got what to do. Cause we live in a blue, blue town. We've got what to do. Cause I live in a blue, blue town. I've got what to do. We've got work to do. Cause I live in a blue, blue town. I've got work to do. Cause we live in a blue, blue town. We've got work to do. Cause I live in a blue, blue town. I've got work to do. Cause we live in a blue, blue town. We've got work to do. Cause I live in a blue, blue town. Cari amici, di nuovo benvenuti alla Tela Sonora, o bentornati. Allora, dopo questo brano di Lorenzo, come si chiama il titolo? Laboratorio di ripercussioni sociali. Perfetto. È il gruppo. E il titolo è Malacrianza. Malacrianza. E ringraziamo Lorenzo per la fiducia e vi dicevo, vi voglio parlare di un libro di Terry Olivi, L'incanto dell'essere, e spiegarvi dall'introduzione dell'autrice giusto due cose. Un invito dell'autrice a ogni tanto a fermarsi, di tanto in tanto, ad osservare con partecipazione, con gli occhi e con il cuore, lasciando che i colori, le forme della natura e della vita possano penetrarci dentro, vivificandoci. L'esperienza della bellezza non è opportuna, direi indispensabile, solo per noi adulti, lo è anche per gli adolescenti e per i giovani. Serve per creare una categoria estetica utile per la vita e per comprendere testi letterari ed artistici in generale. Abbiamo parlato prima di bellezza, di donna, di madre. Direi che Terry questa sera alla Tela Sonora conclude meravigliosamente con questo libro L'incanto dell'essere, edito da Lieto Colle. Ringraziamo Diana e Michelangelo Camelliti, che sono i nostri amici di Lieto Colle, e ringraziamo Terry per averci così introdotto col suo libro L'incanto dell'essere in questa esperienza minimale di bellezza per arricchire di poesia i nostri giorni. Adesso mandiamo un brano che ha registrato Terry per noi, pregherei Paola quindi di metterlo così, perfetto, e poi se ce la facciamo leggiamo due o tre haiku tratti dal libro L'incanto dell'essere. Restate con noi. Via Gioberti, io ti conosco, strada dei miei passi quotidiani, strada di suoni dissonanti, strada dove all'angolo trovi l'offerta di un feticcio di sesso, strada dai colori artificiali, strada di fiori al neon e uccelli di cartone, tra mandri ed acciaio assordanti, strada di sonori colori rutilanti. Io ti conosco, strada eccitata ed eccitante, i tuoi sapori di supplì e patate fritte, i tuoi profumi di altre razze, le tue scritte arabe. E un sogno antico mi assale, di Petra e Damasco, le belle, un sogno di mute carovane, un sogno di palme lontane. I vecchi tunisini seduti al bar, gli occhi cerlieri e tristi. È morto per sempre. Saltato il CD. Beh, allora, peccato perché la voce di Terry già mi piaceva, però io ero pronta, stavo ascoltando, e quindi ho pensato di leggervi un pezzo di, a pagina 23, un brano, Ascoltare. Il suono ci accompagna costantemente, quasi ci inonda, spesso è frastuono, ci assorda. Ma è anche un sottofondo sonoro che accompagna le nostre azioni, il nostro movimento. Apriamoci con attenzione alle onde sonore. Sarà voce, sarà musica, sarà rumore. Della voce notiamo l'inflessione, l'altezza, il tono. Lasciamoci cullare dalla sua morbidezza, dalle sue cadute, dalle sue pause. Ricordiamo la quantità di voci conosciute e tutte diverse. Se sarà rumore, notiamo lo stridio, il sibilo, lo scroscio, il battere dei passi, il soffio del vento impetuoso, della brezza leggera, lo stropiccio, l'urlo. Una sinfonia dodecafonica della nostra vita quotidiana. Ma ancora di più, ascoltiamo il silenzio, il serafico silenzio. Il silenzio, o piuttosto il brusio, della campagna, del bosco, della montagna, del mare in bonaccia. I rumori si attutiscono, solo qualche suono di un animale, lo stormire delle foglie, il movimento delle onde. Altre dimensioni allora si dischiudono dinanzi a noi, strade non conosciute che ci portano all'interno di noi stessi, che ci permettono dolcemente di scendere un poco, più in profondità, che ci concedono intuizioni felici, associazioni particolari, una maggiore conoscenza di noi stessi. Ci balugina davanti un ricordo che poi svanisce, ci illumina un sogno che forse potrà divenire un progetto di vita. E poi anche i ricordi cessano, anche i sogni si fermano, non pensiamo più a nulla. C'è silenzio, anche nel nostro animo, non più suoni, non più rumori. Siamo una piccolissima parte del grande, infinito universo. Bene, io penso che il libro di Terry, adesso poi vi leggerò alcuni haiku, questo brano Ascoltare mi è piaciuto moltissimo e ringrazio Terry per averlo scritto, perché oggi abbiamo parlato di tante cose, prima con Ivano Mugnanini, poi con Chiara Vecchio, la figura della donna, un po' la città, l'urbanismo e tutto ciò che è il senso della bellezza e di come viviamo e se ci piace oppure no il mondo. E poi adesso abbiamo questo inno all'ascolto. All'ascolto che a volte è un ascolto fatto di suoni, a volte invece è un ascolto del silenzio. Io credo che al giorno d'oggi sia molto molto difficile imparare a stare in silenzio e ad ascoltare il silenzio. E quanto sia bello questo esercizio, perché quando si sta in silenzio si ascoltano altre voci, altri suoni, altre dimensioni, è forse anche più facile capire che cosa veramente vogliamo, che cosa siamo noi e dove stiamo andando. Quindi ringraziamo Terry, peccato che non siamo riusciti a continuare ad ascoltare la sua voce, cercheremo di rimediare per la prossima volta, quando magari avremo l'opportunità di avere Terry al telefono. Adesso vi leggo alcuni haiku, gli haiku d'estate, e poi salutiamo la nostra poetessa, anche se non l'abbiamo in diretta, e mandiamo magari ancora un brano di Zero Volume. Haiku d'estate. Occhi di cielo ai bordi delle strade, cicoria in fiore. Nel lago ombra della colonna antica, ombra di ombre. Afa di luglio, nell'ala del grifone, piccioni all'ombra. Sole infuocato, nell'ombra accanto al muro, in fila indiana. Sotto le foglie, chioccia verde la palma, giovane all'oro. Scirocco afoso, pioggia di sabbia in città, scia di tè verde. Ebbene, amici, direi che come anticipazione di Terry possa andare. Aspettiamo di avere l'occasione di averla in diretta con noi. E adesso, prima di lasciarvi, un ultimo brano. Paola, chi... Sì, ascoltiamo Zero Volume con Silenzi Radio. Perfetto, allora un bacio, un ringraziamento a Giorgio Ferrini, che spero poi ci stia ascoltando o ascolterà la puntata, e ci risentiamo dopo per gli ultimi saluti. La fuga adesso vuoi salvare, l'apparenza non funzionerà, lo sai, non è una buona soluzione per recitare un'altra storia. Lasciato tutto alle spalle, devastando ogni comprensione. Neuroni esplosi, un altro distacco, silenzi radio e nessun contatto. Credi di poter ripartire, di poter ripartire, ma di strada ne devi fare. Ancora un taglio più profondo, me l'ha chiuso nel tuo imperio, tutto crollerà. Silenzi radio e nessun contatto. Silenzi radio, nessun contatto. Benissimi cari amici, benvenuti nuovamente alla Tela Sonora, questi sono i saluti perché siamo in chiusura, ringrazio Paola Grauso, ringrazio Giorgio Ferrini, ringrazio Ivano Mugnaini e Chiara Vecchio che hanno partecipato, Terry Olivi di cui abbiamo ascoltato un piccolo brano e poi letto un testo bellissimo su Ascoltare, i suoi haiku, e poi un saluto veramente fantastico a Salvatore Antonio, a Vincenzo Campobasso, Vincenzo D'Alessio e a tutti i nostri amici. Benissimo, vi bacio. Paola mi dice di salutarvi, vi saluto. Ciao. Ciao, ciao. Baci, baci, baci.